Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Jean-Jacques Hofstede, il poeta cittadino che certamente aveva in tasca un paio di rime anche per quella giornata, non era molto più giovane di Johann Buddenbrock il vecchio e, prescindendo dal color verde della giubba, era vestito alla stessa foggia. Ma era più sottile e più agile del suo vecchio amico e aveva gli occhietti immobili e verdastri e il naso lungo appuntito. Grazie infinite del gentile invito, miei cari. Questi due giovanotti, e indicò Tom e Christian che stavano accanto a lui in camiciotto azzurro con la cintura di cuoio. Li abbiamo incontrati nella Königstrasse, il dottore e io, di ritorno dalla scuola. Magnifici ragazzi, vero signora? Thomas è una testa seria e quadrata. Diventerà un commerciante, non c'è alcun dubbio. Christian invece mi sembra un accidente di ragazzo, no? Un pochino incroyable, però non nascondo il mio engouement. Studierà, mi pare, è spiritoso e brillante. Il signor Buddenbrock mise mano alla tabacchiera d'oro. Uno scimmiotto è, che non sia il caso Hofstede di farne addirittura un poeta? La signorina Jungmann chiuse le tende delle finestre e poco dopo la stanza si trovò immersa nella luce irrequieta, ma morbida e piacevole, delle candele del lampadario di cristallo e dei candelabri che erano sullo scrittoio. «Dunque, Christian», disse la moglie del console, e i suoi capelli mandarono un guizzo dorato. «Che cosa hai imparato oggi nel pomeriggio?» E si seppe che Christian aveva avuto lezioni di calligrafia, di aritmetica e di canto. Era un ragazzetto di 7 anni che già ora assomigliava a suo padre in un modo quasi ridicolo. Gli stessi occhi piuttosto piccoli, tondi e infossati, lo stesso naso arcuato e prominente, e sotto gli zigomi un paio di linee facevano già prevedere che il viso non avrebbe conservato sempre la presente pienezza infantile. Tom se ne stava accanto al fratello minore. I suoi denti non erano proprio belli, erano piuttosto piccoli e giallastri. Ma il naso aveva un taglio veramente fine e negli occhi e nelle fattezze del viso egli rammentava molto il nonno. Alcuni si erano accomodati sulle sedie e sul sofà. Si chiacchierava coi ragazzi, si parlava del freddo precoce, della casa. Il dottor Grabov, invece, un coetaneo del console, il cui viso lungo, buono e mite sorrideva tra i favoriti radi, contemplava le torte, i panini con l'uva passa e le diverse salierine piene di sale messe in mostra sulla tavola. Era il pane e sale che amici e parenti avevano mandato alla famiglia in occasione del trasloco. Ma siccome bisognava si vedesse che i doni non venivano da case meschine, il pane era dolce, condito e pesante, e il sale era chiuso in recipienti d'oro massiccio. Più volte si era udito squillare il campanello. Arrivò il pastore Wunderlich, un signore anziano, tarchiato, dall'abito lungo e nero. Il lungo mediatore Gretiens, che era venuto con lui, era un apprezzato conoscitore di opere d'arte. Arrivarono anche il senatore dottor Langels con la moglie, vecchi amici di casa, e non dimentichiamo il negoziante di vino Köppen, con quel suo viso largo e rubicondo tra le spalle imbottite, accompagnato dalla moglie altrettanto prosperosa. Erano già scoccate 4:30 quando giunsero finalmente i Kröger, tanto i vecchi quanto i figliuoli, il console Kröger e consorte coi figli Jacob e Jürgen, che avevano circa l'età di Tom e Christian. Quasi contemporaneamente con loro vennero anche i genitori della signora Kröger. «La gente fine si fa aspettare», fece il console Buddenbrock, baciando la mano alla suocera. «Ma arriva numerosa!» E Johann Buddenbrock fece un largo gesto del braccio verso i Kröger e andò a stringere la mano al vecchio. Non si pensò neanche a sedersi, ma si rimase in piedi in attesa della cosa principale, chiacchierando del più e del meno. E Johann Buddenbrock, il più anziano, offrì senza indugio il braccio a Madame Köppen, dicendo con voce chiara: «Beh, se tutti abbiamo appetito, mesdames et messieurs!» La signorina Jungmann e la cameriera avevano aperto i battenti della porta bianca e tutti entrarono nella sala da pranzo con lentezza fiduciosa, poiché in casa Buddenbrock c'era da aspettarsi qualche buon boccone. tutti si erano mossi. Il giovane padrone di casa si era portato una mano sul petto a sinistra, provocandovi un fruscio di carta stropicciata. E dal suo volto il sorriso di società era scomparso improvvisamente per dare luogo a un'espressione preoccupata, mentre sulle tempie gli guizzavano i muscoli come se egli stringesse i denti. Per finta mosse alcuni passi verso la sala da pranzo, ma poi rimase indietro e cercò con gli occhi la madre, che al braccio del pastore Wunderlich stava per varcare la soglia. «Pardon, caro pastore! Una parola, mamma!» E mentre il pastore gli faceva un cenno incoraggiante, il console Budenbrock riportò la vecchia signora nella stanza dei paesaggi, vicino a una finestra. «È arrivata, per dirla in breve, una lettera di Gotthold», disse rapidamente a voce bassa, guardandola negli occhi scuri e cavando di tasca il foglio piegato e suggellato. «È la sua scrittura. È la terza volta che scrive, e il babbo ha risposto soltanto alla prima. Che cosa facciamo? È arrivata alle 2 e già da un po' avrei dovuto consegnarla al babbo, ma dovevo guastargli la giornata. Che ne dice lei? Siamo sempre in tempo a chiamarlo qua». «Oh no, no, Jan, hai fatto bene. Aspetta ancora», disse Madame Budenbrock, afferrando come al solito il braccio del figlio con rapido gesto. «Che cosa conterrà?» soggiunse preoccupata. «Non vuole mollare quel figliuolo. Si è intestato sull'indennizzo per la parte della casa. Oh no, no, Jan, non ancora. Questa sera, forse, prima di andare a letto. Ora vieni. Ci aspettano». Il console ripose la lettera nella tasca interna, porse il braccio alla madre e insieme entrarono nella sala da pranzo sontuosamente illuminata, dove gli ospiti avevano appena finito di mettersi a tavola. Dallo sfondo celeste della tappezzeria, tra colonnine esili, bianche divinità affioravano quasi in rilievo. Le pesanti tende rosse delle finestre erano chiuse e in ogni angolo della stanza ardevano su alti candelabri dorati 8 candele, senza contare quelle che erano sopra la tavola in doppieri d'argento. «Complimenti, ripeto, Budenbrock!» tuonò la voce del signor Köppen dominando la conversazione, nel momento in cui la cameriera, dalle braccia nude e rosse, dall'abito pesante a righe, con la cuffia bianca sui capelli, aiutata dalla signorina Jungmann e dalla ragazza del console, ebbe servito la bollente zuppa di verdura coi crostini arrostiti e tutti incominciavano a mangiare lentamente. «Complimenti! Questa larghezza, questa signorilità, a onor del vero, devo dire che qui si vive!» Köppen non aveva avuto relazioni coi precedenti proprietari della casa. Si era arricchito da poco, non discendeva da famiglia patrizia e purtroppo non riusciva a liberarsi da certi modi di dire come quel continuo «a onor del vero». «Quando è stato costruito questo palazzo?» domandò Hofstede dall'altra parte della tavola al vecchio Budenbrock, che si intratteneva in tono gioviale e piuttosto ironico con Madame Köppen. «Nell'anno... aspetta un po'... verso il 1680, se non mi inganno. Ah, mio figlio del resto è più al corrente delle date». «82!» confermò il console, che era seduto più lontano senza dama accanto al senatore Langhals. «Fu terminato nell'inverno del 1682. La ditta Rattenkamp and Company incominciava allora ad affermarsi brillantemente. Triste la discesa di questa ditta negli ultimi 20 anni». Per mezzo minuto ci fu un arresto generale della conversazione. Tutti si chinarono sul piatto pensando a quella famiglia una volta così ricca, che aveva costruito e abitato il palazzo e che poi aveva dovuto abbandonarlo impoverita, decaduta. Si cambiarono i piatti di Meissen dall'orlo dorato, mentre Madame Antoinette osservava attentamente i movimenti delle domestiche e la signorina Jungmann lanciava ordini nell'imbuto del portavoce che collegava la sala da pranzo con la cucina. E comparve un enorme prosciutto rosso mattone, affumicato e bollito con una salsa di scalogno bruna e acidula, e una tale quantità di verdure che ogni piatto sarebbe bastato a saziarli tutti. Lebrecht Kröger si assunse l'incarico di scalcare. Alzando leggermente i gomiti, gli indici distesi sul dorso del coltello e della forchetta, tagliò i pezzi sugosi con molta circospezione. Venne servito anche il capolavoro di Elisabeth Buddenbrock, il piatto russo, un misto di frutta conservate nello spirito e pizzicanti. I convitati sedevano su sedie pesanti dalla spalliera alta, si servivano di posate d'argento pesanti, mangiavano ottimi cibi pesanti, bevevano vini fini e pesanti e dicevano la loro opinione. Si venne a parlare di affari. E si cadde involontariamente sempre più nel dialetto, nelle espressioni poco eleganti del linguaggio commerciale, ora conciso, ora trasandato, facendo sentire, accentuandole, le particolarità del dialetto nordico. Le signore non avevano seguito a lungo la discussione. Madame Kröger pontificava spiegando nel modo più appetitoso la maniera migliore di cuocere le carpe nel vino rosso. Il vecchio Kröger intercalava le più amene barzellette. Invece suo figlio, il console Justus, che era seduto vicino al dottor Grabov dalla parte dei ragazzi, aveva attaccato una conversazione scherzosa con la signorina Jungmann. Essa stringeva gli occhi bruni e, secondo la sua consuetudine, teneva ritti il coltello e la forchetta, dondolando leggermente la persona. A questo punto venne in tavola, in due grandi coppe di cristallo, un budino speciale composto di strati di amaretti, di lamponi, di biscotti e di crema. Quando il budino fu quasi consumato e il malvasia esaurito, si alzò ad agio, raschiandosi in gola, Jean-Jacques Hofstede, accolto da un «Ah, generale!». Mentre i ragazzi laggiù si misero addirittura ad applaudire di gioia. «Ecco, excusez, non ho potuto fare a meno», disse toccandosi leggermente la punta del naso e cavando di tasca un foglio. Un grande silenzio si fece in tutta la sala. «In occasione della gradita partecipazione alla lieta festa di inaugurazione della casa nuova della famiglia Buddenbrock». Ottobre 1835. Poi voltò il foglio e incominciò a leggere con voce un po' tremula. Cari amici, la mia musa, con modestia come può, s'avvicina a questa casa che il Signor vi destinò. Il valore e la bellezza qui si porgono la man, con la bella Anadiomene vanno l'opre di Vulcan. Niuna nube mai vi offuschi questa gran serenità, ogni nuovo dì vi arrechi sempre più felicità. fece un inchino, mentre un applauso unanime e fervido scoppiava nella sala. «Oh, charmant, Stede!» esclamò il vecchio Buddenbrock. «Alla tua salute, graziosa, veramente graziosa!» Ma quando la moglie del console toccò il bicchiere del poeta, un lieve rossore le tinse la pelle delicata. Aveva ben osservato il garbato inchino che egli aveva fatto verso di lei, nominando la bella Anadiomene. Nella sala da pranzo incominciarono ad alzarsi da tavola. «Buon pro, mesdames et messieurs, buon pro!» Di là c'è per gli amatori un sigaro che aspetta, e per tutti un sorso di caffè, e se madame vorrà essere generosa, anche un liquore. I biliardi là dietro sono, si intende, a disposizione di ognuno. «Jean, tu dovresti guidare i signori nelle stanze di dietro. Madame Köppen, se permette». Chiacchierando soddisfatti e scambiandosi di ottimo umore auguri di buon pro, tutti ritornarono nella stanza dei paesaggi. Il console, invece, non andò di là, ma raccolse intorno a sé coloro che desideravano giocare al biliardo. Era alquanto tardi, verso le 11, quando gli invitati che si erano raccolti nella stanza dei paesaggi incominciarono a prendere commiato quasi contemporaneamente. La moglie del console, dopo aver ricevuto i baciamano di tutti, salì subito nelle sue stanze e Madame Antoinette si ritirò nel mezzanino. Il console, invece, accompagnò gli ospiti giù per la scala fino alla porta di strada. Con le mani affondate nelle tasche dei calzoni chiari, un po' freddoloso nella giacca di panno, stette davanti alla porta di casa ad ascoltare i passi che si perdevano nelle strade deserte, bagnate e debolmente illuminate. Poi si volse e lanciò un'occhiata verso il frontone grigio del palazzo. I suoi occhi si fermarono sulle parole scalpellate sopra l'ingresso in caratteri arcaici. «Dominus providebit». Chinando un po' la testa, entrò e chiuse con cura il portone pesante e cigolante. Egli salì e, attraversando il colonnato buio, si portò una mano al petto dove teneva quel foglio. Poi entrò nella sala. In un angolo, un candelabro illuminava ancora la tavola sparecchiata. Johann Buddenbrock passeggiava pacatamente su e giù. «Oh, Johann, figlio mio, che c'è di bello?» Si fermò e tese la mano al figlio. La mano bianca, un po' troppo corta, ma ben modellata dei Buddenbrock. «Non sei ancora stanco? Io passeggio qui e sto a sentire il vento. Che tempo indiavolato!» «Ecco, per venire a noi», incominciò a dire, «non volevo soltanto augurarle la buonanotte, babbo, ma lei però non deve andare in collera, vero? Fino a questo momento non ho voluto annoiarla con questa lettera. È arrivata oggi, nel pomeriggio, in questa serata così gaia. Monsieur Gottold, voilà!» Il vecchio finse di rimanere tranquillissimo di fronte a quel foglio azzurrino e suggellato che gli era porto. Al signor Johann Buddenbrock, senior, personale. Uomo tenace il tuo fratellastro, Jan. Non ho risposto recentemente alla sua seconda lettera. E lui è qui con la terza. Mentre il suo viso roseo andava sempre più oscurandosi, strappò con un dito il suggello, spiegò rapidamente il foglio sottile, si girò di sbieco in modo da far cadere la luce del candelabro sul foglio e vi batté un colpo energico col dorso della mano. Persino la scrittura pareva rivelasse la ribellione e l'apostasia, poiché mentre di solito le righe dei Buddenbrock attraversavano il foglio minute, leggere e oblique, quelle lettere erano invece alte, verticali e fortemente calcate. Molte parole erano sottolineate con un frego rapido e corvo. Il vecchio leggeva con rapido movimento delle labbra. Quando terminò la lettera, si rivolse al figlio appena visibile là in fondo. «Eh bien, che stai lì? Che ne dici?» «Che vuol che dica, babbo? Non so che pesci pigliare.» «Non ti lascerai mica intimorire da questi miserabili scarabocchi, va là!» Johann Buddenbrock gli si avvicinò adirato. «Babbo, questi rapporti con Gottold mi opprimono», disse il console sottovoce. «Oh, sciocchezze, Jan! Non facciamo i sentimentali! Che cosa ti opprime?» «Ecco, babbo, oggi siamo stati qui insieme, così serenamente. Eravamo tutti orgogliosi e felici nella coscienza di aver portato la nostra vita, la nostra famiglia, ad un livello in cui le si tributano riconoscimenti e rispetto. Eppure, babbo, questa brutta inimicizia con mio fratello, il suo primogenito... Non ci dovrebbe essere una crepa segreta nell'edificio che abbiamo costruito con l'aiuto benevolo di Dio. Le famiglie devono essere unite, babbo, devono tenersi strette, altrimenti il male bussa alla porta. Baie, Jan, bubbole! Un giovane ostinato, ecco!» «Che cosa fai, Jan?» domandò Johann Buddenbrock. «Sto facendo i conti», disse il console brevemente. «Da una parte, lei dà 33.335 marchi a Gottold e 15.000 a quelli di Francoforte, totale 48.335. Di contro, lei dà soltanto 25.000 a quelli di Francoforte e ciò significa per la ditta un guadagno di 23.335. Ma non è tutto. Ammesso che lei dia a Gottold una somma per indennizzarlo della parte nella casa, ecco che si crea un precedente. Ecco che allora non siamo giunti ad una liquidazione definitiva. Ecco che dopo la sua morte egli può pretendere una parte di eredità uguale a quella di mia sorella e alla mia. E allora la ditta può subire una perdita di centinaia di migliaia di marchi, sulle quali io, futuro unico proprietario, non posso fare assegnamento. Ah no, babbo!» concluse con un gesto energico, levandosi ancor più ritto. «Devo darle il consiglio di non cedere. Buonanotte, Jan, e fatti coraggio. Sai, sono seccature. Arrivederci domattina a colazione.» Thank you.